En política no hay sucesión, en política hay causas. Y los hombres pasamos, y las mujeres también, todos pasamos. Algunas causas sobreviven y se tienen que transformar, y lo único permanente es el cambio. Mancavano pochi giorni al suo 90° compleanno, ma Pepe Mujica è crollato prima. Il tumore che da aprile del 2024 era stato diagnosticato e raccontato, l'ha spento. A gennaio di quest'anno aveva chiesto e detto che il guerriero ha diritto al riposo e si era ritirato definitivamente dalla vita politica. Già un paio di volte era stato dato per morto, ma il 13 maggio è morto davvero. Pepe Mujica ha rotto i confini, è diventato un personaggio politico globale, pur essendo diventato presidente di un piccolo paese, l'Uruguay. La sua è una storia di politica e passione, una storia a cavallo tra mito e povertà, tra istituzioni e movimenti sociali, una vita da film. Infatti Kusturica gli ha fatto anche un documentario. È stato un guerrigliero, ha cercato di fare la rivoluzione, è stato torturato e incarcerato per 12 anni, poi è uscito nel 1985, ha ripreso a fare politica come sapeva, ha lasciato la lotta armata per la via istituzionale e nel 2010, dopo diversi carichi istituzionali, è diventato presidente. Ha legalizzato l'aborto e i matrimoni omosessuali, ma ha anche dato spazio al greenwashing nel capitalismo verde. Compagni e compagni di lotta rivoluzionaria a Tupamaros hanno pensato fosse un traditore. Altri e altre, sempre della stessa organizzazione, l'hanno seguito. Altri e altre l'hanno amato e studiato. Nessuna persona è perfetta. Pepe non ha mai giocato ad esserlo e pur dentro al rifiuto della ricchezza è stato un uomo di potere, sia dentro il Fronte Ampio che dentro l'Uruguay. Ma è stato un uomo di potere capace anche di rompere l'opulenza e rimasto a vivere nella sua fattoria alle porte di Montevideo. Non ha mai girato con macchinoni e non ha comprato vestiti di lusso. Era contro il consumismo e non solo l'ha detto, ma l'ha anche fatto, segnando un'epoca. Il suo Uruguay non è diventato socialista e forse non ha mai voluto davvero lo diventasse. Ha certo però cambiato immaginario e grammatica politica, come nel suo discorso d'addio al Senato, quando decise di giocare dietro le linee della politica. La vittoria di Orsi al ballottaggio 2024 alle presidenziali, anche il suo zampino, da lontano ma non troppo, ha mosso tutto ciò che poteva per riportare il Fronte Ampio al potere in Uruguay. La sua ultima vittoria, il suo regalo al suo popolo. Pepe Mujica è morto, ma restano i suoi discorsi e tra tutto la capacità unica nel continente fatto di caudillos di aver saputo costruire una successione, aver formato un ceto politico giovane capace di portare avanti, poco importa che piaccia o no, il Frente Ampio. E solo per questo esempio di come si possano fare le cose in maniera diversa. Trionfare nella vita non è vincere, ma rialzarsi e ricominciare ogni volta che si cade, disse. Una frase bellissima, potente, iconica, detta da chi ha deciso che la sua vita sarebbe stata lotta politica ed è stato pronto ad affrontare le sue scelte senza volerne uscire come puro, ma riuscendo a rimanere vero. He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie y le quiero transmitir a los jóvenes. Hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Gracias, señora presidenta.